se basta, lottando l'attaccato, le patrie galere, il silenzio appagato, e mentre il nostro sud ha voglia di riscatto, c'è chi nel mondo resiste armato. Ha ha ha ha ha ha!